Sì, siamo partiti, siamo salpati e siamo nel mar Mediterraneo centrale. Certo, ecco, allora la prima domanda ovviamente è: che cos'è Mediterranea, come nasce, qual è il percorso che ha portato alla sua nascita? Sì, Mediterranea appunto è qualcosa di inedito e forse anche mai visto. Non siamo una ONG, abbiamo scelto di definirci una ANG, un'azione non governativa. Azione non governativa perché abbiamo un obiettivo concreto, e che è quello di essere presenti, appunto, presenti nel Mediterraneo centrale, presenti per chi avrà bisogno di noi, in un mare che in questo momento è senza più soccorsi, lasciato vuoto, e in cui le ONG sono state bandite, in cui la solidarietà è stata criminalizzata. E siamo una pluralità di soggetti, tanti, diversi, ci siamo attivati per rendere possibile quest'idea necessaria, e per noi quella piccola flotta che in questo momento è il Mediterraneo centrale è un ponte su cui vogliamo sviluppare un progetto che sia aperto, coinvolgente per tante e tanti altri. È un ponte soprattutto con la terra, quindi collegare quel mare alla terra e la terra al mare, un ponte con tutte quelle persone che quotidianamente mettono in atto gesti di solidarietà nelle città, a Bologna, o di dissenso verso anche le campagne d'odio che questo governo soprattutto in maniera particolare sta alimentando. Infatti Mediterranea è un progetto a più voci, è una piattaforma di realtà della società civile, c'è un nucleo promotore, ma siamo aperti, anzi raccogliamo, in queste ore stanno arrivando tante adesioni sulle nostre pagine Facebook, sui nostri social, sul sito, nelle mail, proprio perché c'è bisogno di costruire attorno a Mediterranea un'attivazione a terra, un'attivazione plurale, un'attivazione che vada oltre anche, no, ai soggetti che hanno iniziato questa missione, e che tutti quelli che vogliono mettere a disposizione risorse quindi donazioni sul crowdfunding, sulla piattaforma di produzioni dal basso raggiungibile dal nostro sito mediterraneerescue.org, e per tutti quelli che vogliono attivarsi insieme a noi per costruire iniziative, per costruire mobilitazione. Ecco, poi sul crowdfunding ci arriviamo, perché ovviamente avete un obiettivo ambizioso, però ecco, ti chiedo quindi nel concreto Mediterranea cosa farà, perché insomma sappiamo che ora le ONG sono state tolte appunto dal Mediterraneo, le navi non possono praticamente più operare, e avevano una duplice funzione: da un lato quella del salvare vite, dall'altro quello anche di testimoniare quello che accade, perché sappiamo che le morti sono aumentate, le partenze non sono finite, però come dire, non c'è più l'attenzione mediatica, forse perché mancano testimoni. Sì, esatto, mancano testimoni. In quel mare abbiamo visto in queste prime ore, no, i primi giorni di navigazione, quel mare è abbandonato, è vuoto, è senza soccorsi. Il Mediterraneo è diventato un luogo di frontiera negli ultimi anni, lo sappiamo, l'abbiamo visto, ma anche un luogo di frontiera che però con drammatici naufragi, e quindi la morte a migliaia di donne, uomini, bambini, che avviene quotidianamente in quel tratto di mare, oggi non è più una testimoniata, oggi non è più denunciata, e oggi non è più impedita soprattutto. Rimanere fermi a guardare quello che succede, o a non guardare quello che succede perché appunto non è più testimoniato, proprio per l'assenza delle ONG, per noi era inaccettabile. Per questo che abbiamo scelto di attivarci, di impegnarci concretamente e di agire, essere dove bisogna essere. Purtroppo lo dico, perché in realtà se i confini fossero liberi e se fossero aperti, e se ci fosse la libertà di movimento delle persone, tutto questo non succederebbe, tutte quelle morti non ci sarebbero. E quindi noi siamo lì perché è una condizione necessaria. E in queste ore in cui siamo lì abbiamo già fatto prime azioni di testimonianza, di denuncia di quello che stava succedendo, abbiamo già osservato, ci siamo già messi in moto e abbiamo assistito, diciamo, a un'azione della Marina, della Guardia Costiera Libica, che ha intercettato un'imbarcazione di migranti e l'ha riportata in Libia. Ecco, riportarla in Libia, noi ovviamente ci siamo attivati per raggiungere questa imbarcazione prima della Guardia Costiera Libica, ma siamo arrivati purtroppo troppo tardi, e quindi questa imbarcazione in questo momento è stata riportata in Libia. Riportarla in Libia significa che in questo momento è ritornata in un paese in cui c'è una guerra civile, in cui ci sono dei lager che, come è stato testimoniato da diverse testate giornalistiche, da Rai News, da altri, Espresso, eccetera, sono dei lager veri e propri dove la vita non viene rispettata, dove le condizioni di chi viene messo in quei lager è indegna, in cui ci sono torture, in cui ci sono violenze. Ecco, e con questo noi dobbiamo fare i conti, con questo dobbiamo fare i conti, con il fatto che il governo italiano ha degli accordi con la Libia e ha degli accordi per far tornare i migranti che cercano una vita migliore in quell'inferno. Sì, in particolare questo è forse l'aspetto più scandaloso, siccome l'Europa, secondo le convenzioni di Ginevra, insomma, non può effettuare respingimenti, li fa fare la Libia, insomma, la Libia fa respingimenti per procura. E sappiamo che, i mezzi per ostacolare il lavoro di chi invece fa ricerca e soccorso sono stati vari, no? Dal codice delle ONG, ma anche la questione dei porti chiusi e, non ultima, la questione delle bandiere. Voi avete bandiera italiana, però abbiamo visto come ad esempio all'Aquarius siano state tolte diverse bandiere. È un problema che rischiate di avere? Credo e spero di no, perché avere una bandiera italiana ovviamente per noi è stata anche una scelta che ci consente anche una vorremmo sperare che non ci fossero problemi, e perché noi stiamo agendo nel rispetto anche di quelle che sono tutte le leggi del diritto internazionale. Quello che è successo ad Aquarius è un caso veramente indegno, è stata una vergogna il fatto di togliere la bandiera ad Aquarius, e il fatto che in questo momento il ministro, i ministri o questo governo dica che i porti sono chiusi non ci sembra una notizia vera, nel senso che i porti delle nostre città li hanno chiusi, ma in realtà per noi continuano a rimanere aperti. Quindi capiremo nelle prossime ore quello che succederà. Noi in questo momento siamo impegnati in un'attività di monitoraggio e di denuncia di quello che succede in mare, e poi quello che succederà lo vedremo appunto nelle prossime ore, e vedremo come si comporteranno anche di conseguenza i vari governi. No, certo, io facevo questa domanda perché immagino che abbiate messo in conto quali sono i rischi di queste operazioni. Sì, sicuramente ci sono dei rischi anche sul fatto di avere bandiera italiana, ovviamente lo sappiamo, però abbiamo scelto di farlo proprio perché pensiamo che da noi italiani in questo momento, noi italiani ci sia bisogno proprio di attivarsi, di rendersi anche disponibili a fare un'azione che in questo momento è assolutamente necessaria. Noi tra l'altro abbiamo anche un'altra bandiera in questo momento in nave, che è la bandiera della città di Palermo, e questa cosa è stata voluta dal sindaco Orlando di Palermo, e quindi la bandiera di Palermo è stata issata accanto a quella europea, quella italiana, sulla Mare Ionio, che la Mare Ionio è appunto l'imbarcazione principale della nostra operazione mediterranea. Certo. E questa cosa il sindaco di Palermo Orlando l'ha fatto, insomma, anche dichiarando il suo sostegno a Mediterranea. Noi speriamo che questo sia un po' anche un esempio che possano seguire anche altri sindaci di altre città, perché forse è arrivato veramente il momento di costruire un movimento di città accoglienti e di città solidali. Siccome parlavamo di sostegno poco fa, prima della pausa musicale, quello che ti volevo chiedere è se appunto sostegno, qual è il sostegno morale che avete ricevuto fino a questo momento, ma c'è anche ovviamente quello economico. Avete un obiettivo molto molto ambizioso, quello di raggiungere i 700.000 euro. Devo dire che in questi primi giorni di crowdfunding sta andando molto bene, però insomma l'obiettivo finale è veramente tosto. Sì, è un obiettivo molto ambizioso, però è il costo di tutta questa operazione, nel senso che noi già stiamo raggiungendo gli obiettivi forse che pensavamo impossibili, ecco, in questi primi giorni siamo già arrivati quasi a 50.000 euro di raccolta sulla piattaforma di crowdfunding, e per noi questo è sicuramente un risultato eccezionale che dimostra quanto ci sia davvero bisogno di queste azioni e che c'è comunque uno spazio in questo paese, ma non solo, possibile di costruzione di percorsi solidali e di attivazione contro anche l'odio e la barbarie. Quindi questo a noi ci dà grande entusiasmo e ci dimostra che forse siamo nella direzione, nella rotta dell'umanità, forse quella giusta. E questo crowdfunding ovviamente va alimentato, va sostenuto, perché abbiamo fatto fronte a delle spese iniziali, come abbiamo detto più volte, queste spese iniziali che sono banalmente anche l'acquisto della nave stessa. Banca Etica in questo ci ha aiutato e ci ha supportato concedendoci un mutuo, quindi in questo momento dobbiamo anche ripagare dei debiti banalmente, e quindi in quei 700.000 euro ci sono anche questi debiti da ripagare, e ci sono però tutti quei soldi che serviranno per poter far andare avanti l'operazione, e che garantiscono a Mediterranea di continuare a navigare. Quindi abbiamo bisogno della partecipazione, dell'attivazione a terra, del sostegno e delle donazioni nell'attività di crowdfunding, e della partecipazione al progetto in generale, che per noi è un qualcosa di aperto e disponibile per tutte e tutti. Ecco, un'ultima cosa, questo pomeriggio alla BA c'è la presentazione. Sì, alle 18.30 alla BA, quindi in Vicolo Bolognetti, ci sarà la presentazione di Mediterranea, e siamo ovviamente aperti e disponibili, ovviamente un'assemblea anche di dove ci interrogheremo insieme su quelli che sono gli obiettivi di Mediterranea, e soprattutto su quali possono essere poi le modalità di attivazione su Bologna, e su come sostenere al meglio appunto a terra, e quindi in particolar modo a Bologna questa missione e questo progetto.